amicizia, lo sai, possiamo crescere noi. Un sentimento sincero ci unisce oramai. E insieme a te per sempre, con te voglio restare, amico mio del cuore. Quante avventure noi due e quante difficoltà supereremo giorno per giorno, e se una lacrima tu verserai.